ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. Oggi lasceremo le ridenti terre del Mediterraneo, con i suoi paesaggi pieni di sole e mare, per addentrarci nelle cupe lande del nord, quelle che, nella Germania, Tacito descrive come vaste solitudines, un luogo dove nessuno mai vorrebbe abitare, perché in formam terris asperam cielo tristem cultu aspectuque, cioè una terra priva di bellezza, aspra di clima, triste ad abitarsi e a guardarsi. E tuttavia, proprio per la loro asprezza, le terre nordiche esercitano un fascino particolare che diventa ancora più forte se si guarda la loro mitologia. Fra le tante saghe ho sempre trovato molto commovente quella di Baldr, il dio della luce. Baldr significa radioso, e davvero questo dio era radioso da tutti i punti di vista. Bellissimo, emanava luce dallo sguardo della nobile persona. Intelligente e amabile, si distingueva fra i rissosi signori dell'Olimpo nordico perché, diversamente dagli altri, non amava la guerra, ma la pace. Era infatti mite e mansueto, ma non per viltà, anzi, di fronte a una contesa, non esitava a scendere in campo per dividere i contendenti, senza curarsi del pericolo. Insomma, era una specie di santo che aveva ben poco a che fare con le divinità ingorde, iraconde, spietate che lo circondavano. Grazie alla sua bontà, era talmente amato che tutti gli esseri del mondo avevano giurato di non fargli del male. Fuoco, acqua, ferro, pietre, piante, animali, tutti avevano giurato di non ferire il mitico Baldr. Purtroppo però una pianta non era stata invitata al giuramento. Non perché la si volesse escludere, ma perché era talmente piccola e giovane che nessuno aveva pensato di chiederle di giurare. Si trattava del vischio. Un vegetale che, come noto, ha un posto particolare nella mitologia e che ancora oggi si ammanta di leggenda. Basta pensare al posto che occupa nelle festività natalizie e alla credenza che sia di buon auspicio baciarsi sotto un rametto di vischio nella notte di San Silvestro. Nel caso di Baldr, però, il vischio non è foriero di gioia, ma di sciagura. Baldr, infatti, era amato da tutti gli esseri tranne uno, Loki, il più perfido degli dei. Ancora oggi in Norvegia, quando si sente scoppiettare la fiamma, si dice che è Loki che sta battendo i suoi figli. Egli infatti era guizzante, infuocato e imprendibile come fiamma, poteva mutare di pelle e di figura e aveva un paio di scarpe che lo rendevano invisibile. Gran chiacchierone, maestro della parola, amava spettegolare e seminare zizzania. La sua sede era una sorta di osservatorio dal quale poteva osservare tutto ciò che accadeva in terra e in cielo. Grazie a questa sua posizione, Loki si accorse che il vischio non aveva prestato giuramento e tramò subito un complotto per volgere tale trascuratezza ai suoi fini malvagi. Fece infatti una freccia di vischio che diede a un dio cieco, Hödr, il quale ingenuamente la scagliò contro il fratello Baldr. Trafitto, il dio della luce cadde morto, condannando il mondo al buio e al male perpetuo. Travolti dalla rabbia e dal dolore, gli dei legarono Loki a una rupe, da dove gli fu fatta colare addosso eternamente la bava di un serpente velenoso. Per quanto atroce, tuttavia, la punizione non servì a riportare in vita Baldr, che tutti piassero disperatamente. A dire il vero, secondo alcune versioni del mito, che essendo assai diffuso ha molte varianti, a un certo punto ci fu la speranza di risuscitarlo. La regina degli inferi, infatti, disse che avrebbe permesso a Baldr di tornare sulla terra se tutti, ma proprio tutti gli esseri, avessero pianto per lui. Ancora una volta piansero tutti tranne uno. Non il vischio, che questa volta è innocente, ma una gigantessa dal nome impronunciabile, Bök, che alla richiesta di piangere per Baldr rispose no. Secondo alcuni si trattava di Loki in uno dei suoi più riusciti travestimenti. Fatto sta che Baldr restò negli inferi e, da allora, non esistettero più sentimenti puri, bontà disinteressata, desiderio di pace. Ovunque regnarono malvagità, inganno, dolore. Una storia triste, vero? Mi colpisce la sua totale assenza di speranza e la nostalgia per la luce del Dio perduto. Forse il rimpianto del sole che per tanti mesi scompare nelle fredde terre del nord, al punto che si dispera di rivederlo mai? Chissà. A risentirci. Thank you.